I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Con il Consiglio dei Ministri di ieri è finalmente arrivata la tanto attesa riforma delle banche popolari, tanto attesa e tanto annunciata. Nel provvedimento di ieri in realtà ci sono altri elementi di grosso interesse per i clienti delle banche, a partire dalla portabilità del conto corrente, dal fatto che le spese di chiusura di un conto corrente quando ci si vuole trasferire in un'altra banca o semplicemente estinguere un conto corrente devono essere a carico della banca e i tempi devono essere rapidi. C'è anche la trasformazione della SACE per aiutare le imprese italiane che esportano in una banca a tutti gli effetti, ma è chiaro che le polemiche, come nei giorni scorsi, si concentreranno e si concentrano tutte sulla riforma delle banche popolari. Chi difende lo status quo dice che sostanzialmente tutta questa riforma ha come unico obiettivo sotto traccia di arrivare e permettere il salvataggio delle due banche non popolari in crisi, ossia il Monte dei Paschi di Siena e la Cassa del Risparmio di Genova. Ma al di là delle opinioni, quello che è certo è che adesso il mondo delle banche popolari diventerà più contendibile, ossia eliminando il voto capitario, una testa, un voto al di là delle azioni possedute, eliminando la soglia del possesso dell'1% ed eliminando anche il limite per il numero di soci, che attualmente era non meno di 200, le banche popolari che hanno dimensioni nazionali e anche europee, quindi quelle sopra gli 8 miliardi di euro, potranno essere tanto contendibili e tanto quindi prede o predatori quanto le altre banche SPA. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Parliamo di piccole imprese e innovazione. Il decreto, chiamato pomposamente Investment Compact, ha inventato la figura delle piccole e medie imprese innovative. A questo tipo di piccole aziende saranno applicabili d'ora in poi gli incentivi finora limitati alle cosiddette start-up, tanto per capirci le aziende inventate dagli smanettoni di internet. A queste nuove PMI innovative si estenderanno quindi le semplificazioni, le agevolazioni finora limitate appunto alle start-up, che si traducono in oneri più bassi per l'avvio d'impresa, in una semplificazione dei certificati, nella possibilità di utilizzare forme alternative di remunerazione dei propri dipendenti come le stock option, appunto le opzioni sulle azioni della società, e infine la possibilità di recuperare fondi attraverso le raccolte via internet da organizzare con i portali online detassati. Ma quali sono però le PMI innovative? Il decreto fissa alcuni criteri per identificarle, visto il ginepraio possibile data la grande quantità di piccole e medie imprese in Italia. Non dovranno essere aziende quotate, dovranno avere l'ultimo bilancio certificato e dovranno possedere almeno due dei tre requisiti seguenti. Devono avere spese in ricerca e sviluppo almeno pari al 3% del maggiore importo tra costo e valore totale della produzione, dovranno avere forza lavoro che per almeno un quinto sia espressione di personale altamente qualificato e dovranno avere la titolarità di almeno un brevetto o di un marchio nei settori industriali o biotech. Sono evidentemente iniziative lodevoli, anche se piccole, perché il decreto competitività durante la discussione ha perso molti pezzi rispetto agli ambiziosi obiettivi iniziali. Peccato però, perché il decreto è nato proprio nel giorno in cui l'indice di competitività di INSEAD sui talenti, presentato oggi al Forum Internazionale di Davos, collocava l'Italia al 36esimo posto su 93 paesi, non proprio un piazzamento d'élite. C'è ancora molta, molta, molta strada da fare. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.